Senta, ma lei è contenta se Berlusconi andrà in carcere? Assolutamente sì, ma sa, allora da un là, se Però, va in carcere per contenta, questo, no, se va in carcere per questo, ma in carcere, in carcere, in carcere. Allora se va in carcere ma lei per ha detto questi assolutamente reati, sì, per, ha detto. no, assolutamente sì, incondizionatamente. Poi se va in carcere Come si fa a essere contento per reati, se qualcuno va in perché galera? quando uno delinque deve pagare, se un paese civile si No, ho basa capito, per essere contento sulla dice. certezza della pena. Certo, ma gli dare, ho capito. È un uomo comunque anche di una certa età, gli darebbe, allora, non ha ucciso nessuno, però no? Se facciamo questo. Allora, io su questo aprirei. Come ha ucciso qualcuno? Su questo aprirei uno squarcio, cioè, ancora in che più senso, importante. Scusi, in che senso? Allora, quello che più secondo me gli italiani dovrebbero sapere, al di là delle intercettazioni dei gusti sessuali, della consulia, della Minetti, no, è la storia della fatto, mafia, di nuovo la storia della mafia. Attenzione, perché non dimentichiamoci. Ma chi avrebbe ucciso Berlusconi? No, non è chi avrebbe ucciso. Berlusconi è indagato da 3 procure: Firenze, Caltanissetta e Palermo, come mandante esterno alle stragi comunque del 92 lei ha detto, e del 93. Ho capito, però queste qua non lasciamo perdere no, questa no, storia. No, lasciamole perdere queste no, cose, perché ho la musica del giornale radio. Lei ha detto, sono contenta se Berlusconi va in carcere. Io certo. Questo qua lo trovo una cosa un po', devo perché? Dire la verità, un po' aberrante. L'idea perché? Che qualcuno è contento, anche lei, anche quando Cuffaro è andato in carcere, era contenta. È ovvio, le ha certo. Detto, io sono contento se Cuffaro va in carcere, sono contento se Berlusconi va in carcere. Allora apriamo le carceri, non mandiamoci nessuno. Un po' mi fa impressione.